un po' per gentilezza verso i suoi amici, cui le professioni di fede dreyfusista di St. Loup riuscivano penose, un po' perché ero più interessato ad altre cose, chiesi al mio vicino se fosse vero che quel comandante dava dimostrazioni di storia militare di un'autentica bellezza estetica. È assolutamente vero. Ma cosa intendete dire esattamente? Ecco, per esempio, tutto ciò che leggete, faccio un'ipotesi, nel racconto di un narratore militare, i minimi fatti, i minimi avvenimenti, non sono che i segni di un'idea che occorre tirar fuori e che spesso ne nasconde altre, come in un palinsesto. Così finite con l'avere un sistema intellettuale equivalente a qualsiasi altra scienza o arte e di grande soddisfazione per lo spirito. Qualche esempio, se posso approfittare? Ah, è difficile spiegartelo così su due piedi, intervenne St. Loup. Tu leggi, mettiamo, che un certo contingente ha cercato, già a questo punto, senza bisogno di procedere oltre, il nome del contingente e la sua composizione non sono privi di significato. Se non è la prima volta che l'operazione viene tentata e se per la stessa operazione vediamo comparire il nome di un altro contingente, può essere segno che i precedenti sono stati annientati o fortemente danneggiati dall'operazione in questione, che non sono più in grado di condurlo a termine. Ora bisogna raccogliere informazioni sul contingente che risulta annientato. Se erano truppe d'assalto, tenute di riserva per offensive grandiose, un nuovo contingente di minore efficienza ha poche probabilità di riuscire dove quelle hanno fallito. In più, se non si è all'inizio di una campagna, anche il nuovo contingente può essere composto di truppe raccogliticce, il che può fornire sulle forze di cui il belligerante dispone attualmente, sull'imminenza o meno del momento in cui esse saranno inferiori a quelle dell'avversario, indicazioni tali da attribuire all'operazione che il contingente sta per intraprendere un significato diverso, perché se non è più in grado di reintegrare le perdite, i suoi stessi successi non faranno che avviarlo matematicamente verso l'annientamento finale. D'altronde, il numero d'ordine che contraddistingue il contingente avversario non è meno significativo. Se, per esempio, si tratta di un'unità molto più debole e che ha già fiaccato più di un'importante unità avversaria, l'operazione assume un diverso carattere, giacché, quando anche dovesse terminare con la perdita della posizione tenuta dal difensore, averla tenuta per qualche tempo può rappresentare un grande successo nel caso che con forze esigue si sia riusciti a distruggere considerevoli forze dell'avversario. Se già nell'analisi dei contingenti impiegati si scoprono cose tanto importanti, puoi ben capire com'è lo studio della posizione stessa, delle vie di comunicazioni stradali e ferroviarie che controlla, dei rifornimenti che protegge, sia ancora più determinante. Occorre studiare quello che chiamerei l'intero contesto geografico, aggiunse St. Loup ridendo, e fu in effetti così contento di questa espressione che in seguito, ogni volta che ne fece uso, anche a distanza di mesi, l'accompagnò sempre con la stessa risata. Sì, mentre uno dei belligeranti sta preparando l'operazione, tu leggi che una sua pattuglia è stata annientata, nei dintorni della posizione, dall'altro belligerante. Una delle conclusioni che puoi trarne è che il primo cercava di rendersi conto dei lavori difensivi con i quali il secondo si propone di sventare l'attacco. Un'azione esercitata con particolare violenza su un determinato punto può significare l'intento di conquistarlo, ma anche quello di trattenervi l'avversario, di non rispondergli dove questi ha attaccato. O può persino non essere altro che una finta e dissimulare, con quel raddoppio di violenza, un prelievo di truppe effettuato proprio in quel punto. È una finta classica nelle campagne di Napoleone. D'altra parte, per capire il significato di una manovra, il suo probabile obiettivo e di conseguenza per prevedere da quali altri sarà accompagnata o seguita, Non è irrilevante basarsi, piuttosto che sugli annunci del comando, magari destinati a ingannare l'avversario o a mascherare una possibile sconfitta, basarsi sui regolamenti militari del paese. Bisogna sempre supporre che la manovra intrapresa da un esercito sia quella prescritta, in circostanze analoghe, dal regolamento in vigore. Se, per esempio, il regolamento prescrive di accompagnare un attacco frontale con un attacco sul fianco, e se, fallito questo secondo attacco, il comando sostiene che esso non aveva alcuna connessione col primo, ma era una semplice diversione, ci sono buone probabilità che la verità vada ricercata nel regolamento e non nelle dichiarazioni del comando. E non ci sono soltanto i regolamenti di ciascun esercito, ma anche le rispettive tradizioni, abitudini, dottrine. Ne bisogna trascurare lo studio dell'attività diplomatica, che è in costante rapporto d'azione o reazione con quella militare. Incidenti apparentemente insignificanti, a suo tempo fraintesi, potranno spiegarti che il nemico, il quale contava su un aiuto di cui, come rivelano quegli incidenti, è rimasto privo, ha eseguito in realtà solo una parte della sua azione strategica. E così, se sai leggere la storia militare, quello che per un lettore comune non è che un confuso racconto, diventa per te una concatenazione razionale, come può esserlo un quadro per l'intenditore capace di vedere che cosa indossi o tenga fra le mani il personaggio effigiato. Mentre lo sprovveduto visitatore dei musei si lascia stordire e intontire da una vaga accozzaglia di colori. Ma come per certi quadri, non è sufficiente notare che il personaggio regge un calice, ma bisogna sapere perché il pittore gliel'ha messo in mano, che cosa simboleggia. Così le operazioni militari, anche a prescindere dal loro fine immediato, sono di solito nella mente del generale che dirige la campagna ricalcate su antiche battaglie che costituiscono, se vuoi, il passato, la biblioteca, l'erudizione, l'etimologia, l'aristocrazia delle nuove battaglie. E nota che non parlo per ora dell'identità locale, come dire, spaziale delle battaglie. Anche questa esiste. Un campo di battaglia non è stato o non sarà, attraverso i secoli, il campo di una sola battaglia. Se è diventato campo di battaglia, è perché riuniva in sé certi requisiti di posizione geografica, di natura geologica, magari dei difetti tali da mettere in imbarazzo l'avversario, un fiume per esempio che lo taglia in due, in virtù dei quali esso è un buon campo di battaglia. E come già lo è stato, così ancora lo sarà. Non si fa un atelier di pittura in una stanza qualsiasi, non si fa un campo di battaglia in un posto qualsiasi. Ci sono luoghi predestinati. Ma ancora una volta non è di questo che intendevo parlare, ma dell'imitazione di un certo tipo di battaglia, di una sorta di ricalco strategico, di pastiche tattico, se vuoi. La battaglia di Ulm, di Lodi, di Lipsia, di Cannae. Non so se ci saranno ancora guerre fra quali popoli, ma se ce ne saranno, sta pur sicuro che ci saranno anche, e deliberatamente da parte del capo, altre Cannae, altre Austerlitz, altre Rosbach, altre Waterloo, per citarne solo qualcuna. C'è chi non si perita di affermarlo. Il maresciallo von Schlieffen e il generale von Falkenhausen hanno rielaborato in anticipo, ai danni della Francia, una battaglia di Cannae stile Annibale, con contenimento dell'avversario lungo l'intero fronte e avanzamento sulle due ali, segnatamente sulla destra in Belgio, mentre Bernardi preferisce lo schieramento obliguo di Federico il Grande. Leuthen, anziché Cannae. Altri espongono meno brutalmente le loro vedute, ma ti posso garantire, vecchio mio, che Beauconseil, quel comandante di squadrone al quale t'ho presentato l'altro giorno e che è un ufficiale di grandissimo avvenire, Ha sgobbato sulla sua piccola offensiva di Prazen e la conosce in ogni dettaglio, se la tiene da conto e se mai avesse l'occasione di eseguirla non fallirà il colpo e ce la servirà in grande stile. Lo sfondamento del centro a Rivoli, vedrai, si rifarà se ci saranno altre guerre. Non è meno attuale di quanto lo sia l'Iliade. Ti dirò di più. Si è praticamente condannati agli attacchi frontali perché non si vuole ricadere nell'errore del 70, ma fare dell'offensivismo puro e semplice. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che, se ad opporsi a questa magnifica teoria sono soltanto, a quanto mi risulta, degli spiriti retrivi, c'è tuttavia uno dei miei più giovani maestri, Mogen, un uomo geniale, che vorrebbe lasciare spazio, provvisoriamente, si intende, al difensivismo. Non è certo facile dargli torto quando porta ad esempio Austerlitz, dove la difesa non è che il preludio dell'attacco e della vittoria. Le teorie di Saint-Loup mi deliziavano, mi facevano sperare di non essere vittima nella mia vita a Donzier nei confronti di quegli ufficiali di cui sentivo parlare sorseggiando bicchieri di Sauternes che proiettavano su di loro un seducente riflesso dello stesso effetto di ingrandimento in virtù del quale mi erano parsi enormi a Balbec il re e la regina dell'Oceania, il gruppetto dei quattro buongustai, il giovane giocatore, il cognato di Le Grandin, ora rimpiccioliti ai miei occhi, sino a sembrarmi inesistenti. Forse ciò che mi piaceva oggi non mi sarebbe diventato indifferente domani, come sempre mi era successo. L'essere che ero in quel momento non era votato, forse, a una prossima distruzione, visto che alla passione ardente e fuggitiva da me consacrata nelle ultime sere a tutto quanto concerneva la vita militare, Saint-Loup aggiungeva, con ciò che mi aveva rivelato circa l'arte della guerra, un fondamento intellettuale di natura permanente, capace di avvincermi con una forza tale da consentirmi di credere, senza bisogno di ingannare me stesso, che una volta partito avrei continuato a interessarmi delle occupazioni dei miei amici di Donzier e non avrei tardato a tornare fra loro. Tuttavia, per essere ancora più certo che l'arte della guerra fosse davvero un'arte, nel senso spirituale della parola, i vostri discorsi, pardon, i tuoi discorsi mi interessano molto, dissi a Saint-Loup, ma c'è un punto che non mi convince del tutto. Sento che potrei appassionarmi all'arte militare, ma prima dovrei accertarmi che non sia troppo diversa dalle altre arti, che non si risolva tutta nella regola acquisita. Tu dici che si ricalcano delle battaglie. Ammetto che in effetti sia estetico, secondo la tua espressione, vedere sotto una battaglia moderna una battaglia più antica. Non saprei dirti quanto mi piaccia quest'idea. Ma allora il genio del capo non conta nulla. Non si fa altro in realtà che applicare delle regole. Oppure a parità di scienza vi sono grandi generali, così come vi sono grandi chirurghi, i quali pur di fronte a una serie di elementi materialmente identici, forniti da due quadri clinici, intuiscono da un non nulla, frutto forse della loro stessa esperienza ma interpretata, che in questo caso devono fare una certa cosa e in quello invece una cert'altra, che in un caso conviene piuttosto operare e nell'altro astenersi dall'intervenire? Ma è naturale, ecco! Quando tutte le regole vorrebbero che attaccasse, Napoleone non attacca se un'oscura divinazione glielo sconsiglia. Guarda Austerlitz, per esempio, oppure nel 1806 le sue istruzioni a Lannes. Poi, però, vedi dei generali imitare scolasticamente una certa manovra di Napoleone e raggiungere il risultato diametralmente opposto. Ce n'è una decina di esempi nel 1870, ma anche per l'interpretazione di ciò che può fare l'avversario, le sue mosse sono soltanto un sintomo che può significare molte cose diverse, ciascuna delle quali ha le stesse probabilità di essere quella vera, se ci si attiene al ragionamento e alla scienza, Così come, in certi casi complicati, tutta la scienza medica del mondo non sarà sufficiente per stabilire se l'invisibile tumore è fibroso o no, se l'operazione deve o non deve essere fatta. E il fiuto, la divinazione alla Madame de Thèbes, tu mi capisci, a decidere nel grande generale, così come nel grande medico. Accennavo, per fare un esempio, al possibile significato di una ricognizione all'inizio di una battaglia. Ma può significare altre 10 cose diverse. Per esempio, far credere al nemico che si attaccherà in un certo punto mentre si intende attaccare in un altro. Oppure stendere una cortina che gli impedirà di scorgere i preparativi dell'operazione reale, costringerlo a far affluire delle truppe, a tenerle impegnate o ad immobilizzarle in un luogo diverso da quello in cui sono necessarie. Rendersi conto delle forze di cui dispone, metterlo alla prova, forzarlo a scoprire il proprio gioco.